9 in punto. La politica nel tunnel. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano di dire, lei non siamo qui mica a vendere le noccioline. Voi siete lì per noi, non per voi. Ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo. E io sono uno di quelli. Quanto mai adatta nella giornata di oggi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, l'intervento di Angelo dalla provincia di Bergamo che stiamo trasmettendo tutte le mattine e che avremmo sperato di togliere presto, a dir la verità. Avremmo sperato che si accordassero i partiti per fare un governo, per insomma, cercare di sistemare un po' di cose. Evidentemente questo accordo continua a non arrivare. Tra le sintesi di giornata possiamo riportare le parole di Maurizio Marchesini, presidente di Confindustria dell'Emilia-Romagna. La troviamo su Corriere della Sera di oggi. Se qualcuno pensa di andare a nuove elezioni, sappia che nel frattempo noi saremo costretti a portare i libri in tribunale. Questo il quadro, mentre ancora piangiamo due vittime. Due persone che hanno deciso di togliersi la vita. Si tratta di Romeo Dionisi, 62 anni, Anna Maria Sopranzi, 68, e siamo a Civitanova Marche. La vicenda ormai la conoscete, non riuscivano a stare dietro alle spese, molto semplicemente, detta molto brutalmente, e hanno deciso di togliersi la vita in un gesto che è stato descritto come un gesto di estrema dignità. Su questo poi ci torneremo, perché questo è il nostro tema di oggi. L'hashtag su Twitter, se vorrete, è morire di crisi. Se volete telefonarci, è l'800 24 00 24. Ebbene, c'è dignità anche nel chiederlo aiuto, questo, nel chiedere aiuto, questo non ci scorderemo naturalmente mai di ripeterlo. Detto ciò, ci sono alcune questioni che restano in campo. Io personalmente, per quanto insomma possa essere considerata quasi una cosa normale, trovo abbastanza assurdo che in un paese si debba pensare, si debba arrivare a fare un mutuo per poter pagare i contributi INPS, cosa che è successo appunto a Romeo Dionisi. Trovo assurdo che si debba essere costretti a lavorare in nero e magari trovare una caricatura di imprenditore, non mi vengono nemmeno le parole, che alla fine decida di scappar via e non pagarti quei 10.000 euro che ti deve e che adesso dovrà portare un bel peso sulla coscienza. È di questo che parliamo stamattina. Saluto Corrado Mandreoli, che è responsabile dello sportello Mobilitati Esodati della Camera del Lavoro di Milano. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e a lei. Buongiorno. Emilia Laugelli, responsabile di Inoltre la salute dell'imprenditore, un servizio di supporto psicologico che si trova in provincia di Vicenza, del quale abbiamo parlato anche da questi microfoni, ne ha parlato in passato Oscar Giannino. Buongiorno Laugelli. Buongiorno a tutti. Ma il primo ospite col quale parleremo è Ivo Costamagna, presidente del Consiglio Comunale di Civitanova. Buongiorno anche a lei, Costamagna. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Verremo tra poco a parlare insomma di quello, anche di quello che può fare un comune, di quello che può offrire, però io vorrei partire dalla cronaca, perché Ivo Costamagna, oltre ad essere un responsabile politico, era anche un dirimpettaio, un vicino di casa delle due persone che si sono tolte la vita. Vorrei capire da lei, al di là del racconto di cronaca, insomma l'abbiamo letto tutto, l'abbiamo visto sui giornali, sappiamo che lei li ha incontrati due giorni prima che decidessero per questo gesto. Come sono andate le cose? C'è stata una richiesta di aiuto? Non c'è stata una richiesta di aiuto? Non l'hanno voluta accettare? Costamagna. Erano alcuni giorni prima, era il sabato precedente la Pasqua, erano venuti, come spesso accadeva, per fare gli auguri sostanzialmente, questa grande dignità, che poi però diventa anche una una forma patologica, poi magari penso che ci ritorneremo, me l'ha già detto, per la quale non avevano mai in alcun momento, pur essendo una vicenda che poi da quello che ho capito durava da un paio di anni e si era sempre più aggravata quella economica, non avevano mai chiesto aiuto. Parlando però quel giorno io avevo capito, perché era visibile a chiunque, insomma, lo stato di depressione di Anna, mentre invece Romeo ancora continuava ad essere attaccato alla vita, alla propria attività di muratore, alla propria partita IVA e a quel benedetto e maledetto DURC, che sarebbe il certificato che l'INPS deve rilasciare per consentire di poter lavorare, e per il quale lui, per poterlo appunto avere, per poter lavorare, lui aveva contratto, e quel giorno mi ha spiegato un po', seppur con la ritrosia che dicevo era tipica del loro carattere, ma in particolare in questo caso, mi aveva raccontato questa vicenda di questa rincorsa ogni 3 mesi ad avere i soldi attraverso finanziamenti di una banca, di una finanziaria, che naturalmente si accumulavano e che naturalmente lui, dovendo lavorare in nero, perché con la crisi del settore, che qui era uno dei settori trainanti, quello dell'edilizia, non vi erano possibilità di lavoro retribuito e regolare, diciamo. Ma questo serpente che si morde la coda, che legislativamente era stato creato del DURC, che doveva servire ad impedire il lavoro nero, in questo modo lo alimentava, ma non solo, alimentava una situazione per la quale, non avendo i soldi per essere in regola, non poteva lavorare. E questo, per una famiglia più debole, più dignitosa, più orgogliosa, non so qual è il termine migliore, però è diventata una sorta di tenaglia che poi alla fine si è stretta fino alla tragedia finale. E la richiesta... Sì, ecco, a questo volevo arrivare. La richiesta si è limitata al lavoro. Loro erano terrorizzati per un pignoramento che ci poteva essere, perché era arrivata loro una cartella che paventava una possibilità di pignoramento, e l'unica richiesta poi estratta proprio a forza, perché era quella di dire: beh, vedi se è possibile un lavoro, ma sappi che noi non abbiamo più questo DURC, quindi dovrebbe essere un lavoro in nero, essere una situazione così non regolarizzata. Io ho detto: ma vediamo un attimo, noi tra l'altro sotto casa vediamo nello stesso condominio da 35 anni, abbiamo aperto da pochi mesi come amministrazione l'Emporio della Solidarietà, e c'è un servizio distaccato dei servizi sociali, quindi non è che dovevamo andare molto lontano. Loro si rifiutavano, e questo a me in qualche modo ha colpito cioè, molto. Cioè, lei gliel'ha offerto, lei gliel'ha offerto, gliel'ha detto, e loro cosa hanno risposto? No, soltanto la possibilità di trovare un lavoro, ma lui poi, lei già in qualche modo poi, rivedendola a ritroso quella scena, lei già aveva quasi staccato la spina, cioè si limitava a dire: io non sopporterò il pignoramento di una vecchia panda, poi tra l'altro niente di particolare, ma loro avevano sempre vissuto con grande dignità, erano quel piccolo ceto medio che aveva mandato avanti il paese, nella nostra realtà tra l'altro era quello più consistente, la colonna vertebrale della realtà marchigiana, però ecco, si era spinto fino a questo eccesso, che è l'eccesso di chi purtroppo subisce una scala di valori che è quella che mettere la ricchezza, o perlomeno il non indebitamento, come parametro di dignità, e questo non può essere. Avere difficoltà economica non è un disonore. Chiedere aiuto al comune, venite in comune, parliamo, io lo dico perché serva questa tragedia anche ad altri, anche agli altri, ai tanti che io sono convinto che, specie nelle nostre zone, ma credo anche in giro per l'Italia, non hanno coraggio, non hanno appunto di aprirsi, di parlare con gli enti locali per quel poco che possono fare, perché poi invece su altre questioni, come le dicevo prima, come quella del DURC, io cercherò attraverso alcuni amici parlamentari, cioè, qui un senatore, eccetera. L'ho già detto nella visita che ci ha fatto la Presidente Boldrini, lì bisogna intervenire, aprire una finestra, questa cura da cavallo, altrimenti necessaria al Paese, rischia di ucciderlo il paziente. Ecco, però quello che possono fare i comuni è quello di cercare di indirizzare le risorse sul lavoro e sui servizi sociali, ma la gente deve capire anche che ci deve essere un'inversione nella scala dei valori. Nella scala dei valori. Costa Magna, adesso ci torniamo. Io andrei da Corrado Mandreoli, che poi so che ci deve salutare perché ha un impegno, si diceva responsabile dello sportello Mobilitati esodati dalla Camera del Lavoro di Milano, che di fatto Mandreoli è uno sportello che cerca di offrire una sorta di supporto psicologico, se così possiamo dire. Quanto è incrementato, quanto è cresciuto tutto questo nell'ultimo periodo, anche perché la vicenda di Civitanova va a sottolineare un punto centrale, troppo spesso sottovalutato, perché parliamo tantissimo, e anche giustamente, se vogliamo, di disoccupazione giovanile, e tendiamo a sottovalutare invece quella disoccupazione degli over 50 che difficilmente trovano collocazione successiva. È il caso per esempio del signor Romeo. Mandreoli. Sì, beh, intanto mi astengo da giudizi personali davanti a fatti di questa natura. Vorrei sottolineare alcuni aspetti. Il primo è che questo ci sta dicendo che la situazione è davvero molto molto grave, e noi siamo arrivati in questa situazione dopo anni che di lavoro non si parlava di lavoro, non si parlava del dramma della disoccupazione, dei tagli alla scuola, alla ricerca e alla formazione. Siamo arrivati a questo punto dopo diversi anni di grande silenzio e oggi se ne parla. Il problema del dato della disoccupazione, non ci sono solo gli esodati paradossalmente sono diciamo l'ultima faccia di questo dramma della disoccupazione. Tenete conto che c'è una disoccupazione quotidiana fatta da persone che vengono lasciate a casa da piccole realtà che non fanno mai notizie, e questo è un numero fortemente in aumento. Allora, il problema è che di fronte a questa disoccupazione noi le risposte che cerchiamo di dare sono quelle di natura sindacale tradizionale, ma ci siamo accorti da un po' di tempo a questa parte, diciamo che abbiamo iniziato quasi 2 anni fa, a leggere negli occhi delle persone che lo strumento sindacale rispetto all'avvertenza piuttosto che al ricorso alle questioni pensionistiche eccetera non bastava. Da tempo c'è una diffusione di un sentimento pesantissimo che è di sconfitta rispetto al futuro. Una persona che a 55 anni si vede dall'oggi al domani cancellare una prospettiva di lavoro, non crolla solo l'aspetto economico, ma crolla anche la sua identità che si è costruita in quegli anni, in quell'azienda, con quel lavoro, con quella professionalità. E quando viene sottratta quella prospettiva, che va in crisi non è solo appunto l'aspetto economico, ma va in crisi la persona. Va in crisi la persona e che nel bilancio che comincia a fare si sente un fallito. Paradossalmente il rischio è che si senta in questa situazione anche esso stesso responsabile di questo fallimento, e quindi vanno in crisi meccanismi soggettivi davvero, davvero molto pericolosi. Che cosa ingenera questa situazione? Intanto tanto dolore, tantissimo dolore rispetto a una situazione di questo tipo. La seconda questione è che il dolore poi spesso si trasforma in una patologia che è la depressione, e se la depressione scava mina alle radici la tenuta di una persona. La terza questione, che è l'elemento caratteristico di questa fase, è che tutto questo avviene in un momento storico dove le persone sono sole. Cioè non è che negli anni passati noi non abbiamo subito grandi processi di ristrutturazione industriale. Qui a Milano, se si pensa a tutta la chiusura delle grandi fabbriche metallurgiche eccetera, hanno lasciato a casa migliaia e migliaia di persone. Il clima era diverso, c'era solidarietà, c'era un tessuto relazionale tra le persone, anche all'interno dello stesso movimento sindacale, le lotte, le iniziative, eccetera, tenevano legate tra di loro le persone. Questa tremenda crisi occupazionale arriva in un momento dove il tessuto relazionale tra le persone è frantumato, le persone sono molto più sole e quindi questo dolore, questa perdita di identità in solitudine diventa a volte davvero molto molto pericolosa anche per azioni di autolesionismo. E allora noi abbiamo pensato semplicemente a una cosa, oltre agli altri strumenti, di cercare di rimettere insieme le persone per dire: guardate, vi sta succedendo una cosa molto grave, però forse mettendoci insieme, parlandone, ascoltandoci, non possiamo magari risolvere immediatamente, come dire, il bisogno di lavoro, ma sicuramente possiamo ricostruire un clima che ci faccia reggere meglio da un punto di vista personale, insieme alle altre persone, quello che ci sta capitando. E cioè raccontandosi e ascoltandosi, soprattutto riscopre diciamo quel legame, quella solidarietà. Guardate che molte di queste persone a volte hanno semplicemente bisogno di essere ascoltate, hanno semplicemente bisogno di tirar fuori. E soprattutto mi sembra di capire, scusi se brutalizzo, Mandreoli, il bisogno di trovare qualcuno che sia nella tua stessa condizione per capire che non sei da solo e che hai bisogno di aiuto. Questo è il succo. Sì, e soprattutto, è che la possibilità di rimettersi in moto e uscire da una fase di così pesante depressione e di buio è possibile se tu ritrovi la voglia di rialzare la testa. E questa voglia di rialzare la testa spesso la trovi appunto attraverso la cosa che diceva lei, e cioè essere ascoltati ascoltare e capire che ci sono persone nella tua stessa condizione che ti raccontano magari come loro hanno affrontato questa situazione, eccetera. Ripeto, non è la soluzione al problema dell'occupazione. È chiaro, è evidente, Mandreoli. Molto brevemente, perché poi abbiamo una pausa e tra l'altro la devo salutare, poi vogliamo sentire Emilia Laugelli, voglio sentire tra poco, avremo l'arcivescovo di Fermo, Monsignor Luigi Conti, proprio anche sulla situazione che c'è. Brevemente, quante richieste di aiuto ricevete? Le richieste di aiuto, per esempio in questo primo anno, sono oltre 600-700, non c'è solo lo sportello Esodati, ma ci sono tutti gli altri nostri sportelli che raccolgono domande di aiuto e di intervento. Abbiamo firmato adesso un protocollo d'intesa col Comune di Milano affinché questa nostra esperienza diventi un'esperienza istituzionale aperta a tutti. Istituzionale aperta a tutti. 9 in punto. Ed eccoci di nuovo, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Emilia Laugelli, responsabile di Inoltre la salute dell'imprenditore, servizio creato dalla Regione Veneto, se non sbaglio, Laugelli, no? Organizzato no. Dalla Camera di Commercio? No, è un servizio che è stato così pensato e voluto direttamente dal governatore Luca Zaia, se ne ha affidato l'incarico e siamo operativi dal giugno del 2012. Come vanno le cose dalle vostre parti? Guardi, questo servizio è nato in seguito alle tristi vicende della primavera dello scorso anno. Ci sono state una serie di suicidi e comunque di drammi legati al mondo della disoccupazione, alla crisi degli imprenditori, eccetera. E questa iniziativa è stata proprio voluta per dare una risposta sanitaria a questo tipo di richiesta, di necessità, di bisogno. Devo dire che adesso siamo quasi a 9 mesi, 10 mesi di attività, siamo a 550 telefonate. E di queste 550 telefonate, 165 imprenditori o comunque persone che hanno necessità sono seguite dai nostri operatori psicologi territoriali, che però non si limitano soltanto a dare una risposta al disagio psicologico, ma li accompagnano in un percorso che veda anche delle risposte di tipo economico, burocratico, amministrativo. Per cui questo servizio, che è aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è una risposta che va a creare poi una rete per dare comunque sostegno, aiuto, supporto a chi lo chiede. Perché, lo ripetiamo ancora una volta, è importante dirlo, togliersi la vita non è una risposta. Un fallimento economico non corrisponde ad un fallimento personale, non necessariamente. Si può sempre recuperare, ci si può rialzare anche quando vi sembra di essere con l'acqua fino al collo. Monsignor Luigi Conti, arcivescovo di Fermo, buongiorno. Buongiorno. Io abbiamo chiesto di averla in diretta, di chiamarla, perché ho letto l'omelia di ieri a Civitanova e segnalava che, insomma, le richieste di aiuto che ricevete come, naturalmente, come arcidiocesi, immagino come Caritas, come strutture di solidarietà che la Chiesa ha sul territorio, stanno crescendo moltissimo. Io non so se è in grado di darci dei numeri, però almeno ci dia un po' di misura di tutto questo. Ma diciamo così, innanzitutto, che non parlerei volentieri di questa cosa, perché è un dolore troppo forte, e soprattutto perché la mia è stata un'omelia, quindi un gesto liturgico. Tuttavia credo che sia necessario non dimenticare. Quello che mi ha prevalentemente colpito di questa situazione, di cui tutta Italia, ma anche la CNN, si è resa conto, è stato il gesto, diciamo il biglietto che hanno scritto i nostri fratelli che si sono tolti la vita, Romeo, Anna Maria, Giuseppe. Loro hanno scritto: perdonateci per quel che abbiamo fatto, siamo nel ripostiglio. Un'immagine veramente plastica che dice la sconfitta profonda che appartiene a tutti noi. Per questo nell'omelia io mi sono sentito all'inizio, proprio quando si fa l'atto penitenziale, di chiedere perdono a loro, perché noi abbiamo bisogno di perdono da parte loro. Perché non dimenticare? Perché Civitanova è una città moderna, una città che era nota in tutte le Marche non solo per il lusso, le scarpe di lusso, lo shopping, il benessere, la ricchezza. Da venerdì mattina è diventata l'emblema delle mille Civitanove che esistono in Italia, perché oggi tante città sono ridotte così, dove c'è gente che preferisce scomparire piuttosto che chiedere aiuto. Fra l'altro, vede, noi come Chiesa, Arcidiocesi di Fermo, a cui appartiene Civitanova, abbiamo fortemente potenziato la Caritas negli ultimi tempi. Il 16 dicembre scorso abbiamo aperto un centro d'ascolto e una mensa, e il giovedì santo scorso, quando io ho lavato i piedi ai volontari Caritas e ad alcuni poveri, abbiamo aperto un altro centro per la distribuzione di vestiario, di alimenti, eccetera. Quindi sentivamo proprio sulla pelle il bisogno di dare risposte a questa città. Tuttavia in alcuni casi non siamo riusciti a penetrare la solitudine di questa famiglia, per esempio, che purtroppo ha fatto questa scelta. Vorremmo evitare che ci sia una sorta di effetto di imitazione in questo senso. Per questo volentieri parlo di questa cosa, anche se, ripeto, è un dolore troppo forte che vorrei tenere per me. Crede Monsignor Conti che ci sia un difetto della politica in questo senso, cioè un non saper cogliere questa solitudine e questa sofferenza economica? Assolutamente sì. Quello che mi ha spaventato, e l'ho detto nell'omelia, non è stato tanto il fatto che operai o impiegati licenziati venissero a chiedere un aiuto. Questa era nella norma, ma mi ha spaventato il fatto che una quindicina di imprenditori negli ultimi 3 mesi mi hanno incontrato per chiedere delle commesse di lavoro con lo scopo di non licenziare i loro dipendenti. A questo punto ho detto, se tra me e me, se gli imprenditori sono a questo punto, vuol dire che lo Stato veramente non dà nessuna risposta, perché io sono marchigiano di origine, sono vissuto più di 30 anni a Roma, ho fatto il parroco a Roma, ho visto la povertà anche della grande città, ma tornando nelle Marche mi sono reso conto che il genio marchigiano che aveva generato il famoso modello marchigiano di sviluppo oggi si scontra contro inadempienze della politica spaventose. È per questo che in qualche modo non voglio puntare il dito né condannare nessuno, ma sollecitare una risposta, questo sì. Non perdano tempo, non perdano tempo, ci facciano veramente la carità di rendersi presenti. La Presidente della Camera Boldrini, che è una donna di grande sensibilità, che ha vissuto il rapporto con l'esilio e con le forme di accoglienza dei rifugiati come modello di vita, potrei quasi dire, venendo si è spaventata anche lei, si è resa conto che le stesse dinamiche che si pongono a livello di stati si pongono oggi nelle nostre piccole o grandi città, e questo è indicativo, e io spero davvero che la politica dia presto delle risposte. Grazie, grazie a Monsignor Conti per essere stato con noi e buona giornata. Noi adesso sentiamo anche qualche ascoltatore. Katia da Ferrara, buongiorno. Sì, volevo portare la mia piccola esperienza se è possibile. Effettivamente c'è bisogno di aiuto, ma l'aiuto non è il piatto di pasta o la botta sulla spalla, che può fare bene in questi casi, e lasciarci lavorare e lasciarci lo stipendio o il salario che portiamo a casa e non dare il 60% al nostro buon socio Stato che si presenta ogni fine mese. L'esperienza effettivamente che io ho subito è quella di essere vessata, messa con le spalle al muro, minacciata dall'Agenzia delle Entrate per delle cose che non hanno nessuna realtà. Nel senso che non esiste il codice del contribuente, non è una legge applicata dall'Agenzia delle Entrate. Tu entri per una sciocchezza, perché non eri congruo, perché non eri coerente, e per noi portatori di IVA, e non uso questo termine a caso, perché sei un portatore di handicap quando hai una partita IVA, sei una persona emarginata perché le banche ti chiedono firme su altre firme perché non sei una persona stabile. E quando ti arriva anche l'Agenzia delle Entrate che ti vessa, ti minaccia e ti porta avanti un anno per rubarti i soldi in tasca, io credo che l'unica maniera di aiutarci sia lasciateci lavorare e dateci il lavoro, e soprattutto non portateci via il 60% di quello che noi prendiamo. Grazie, grazie Katia per la sua testimonianza. Ci prendiamo una pausa, poi ritorniamo, voglio risentire Ivo Costamagna ed Emilia Laugelli, e poi devo una risposta a un ascoltatore, Simone Bianco, che ci sta scrivendo su Twitter dicendo l'hashtag che stiamo usando è morire di crisi, dice incredibile, quindi il problema è non chiedere aiuto, non evitare di portare i contribuenti a dover elemosinare. 9 in punto. Allora, doverosa risposta, come si diceva, Simone Bianco che dice, insomma, perché parlate di chiedere aiuto? I problemi sono altri, il problema è lo Stato, come ti tratta, come ha trattato appunto il signor Romeo Dionisi. Sì, è chiaro che il problema è quello, però questa crisi morde, azzanna, sbrana, e quindi bisogna ragionare anche su queste cose per evitare che poi si finisca in tragedia. Costamagna, torno a lei, che l'abbiamo sentita solo all'inizio. Ha sentito che dice l'arcivescovo, insomma, la politica non fa abbastanza, forse. Vabbè, io gran rispetto per Monsignor Conti, le sue parole sono un monito su cui riflettere, soprattutto da cui prendere spunto per agire velocemente. È chiaro che il suo è un ragionamento complessivo, però devo dire anche questo, che leggevo una riflessione ugualmente su questa vicenda del Monsignor Menichelli, che è il vescovo di Ancona, il vicepresidente regionale della CEI, in cui diceva alcune cose che differenziavano la politica, e cioè dicevano che la politica non deve essere fatta da chi vuole arricchirsi, ma non deve essere fatta neanche da chi non sa che cos'è la politica, che è la cosa più importante. Ecco, questa differenziazione secondo me è fondamentale se vogliamo ridare alla gente la possibilità di ricreare insieme, perlomeno con gli enti locali intanto, poi il legislatore deve fare la sua parte, qui ha ragione la signora di Ferrara, lo Stato deve passare velocemente dal rigore allo sviluppo, all'equità, perché altrimenti la tenaia uccide, lo accennavo prima, questa morte si è creata con i provvedimenti dell'ultimo anno, rischiano di produrre queste cose, ma noi lì non possiamo nulla come gli enti locali, ma come enti locali possiamo intervenire su quell'ultimo anello che è la solidarietà, quell'anello che può far rialzare la testa, come veniva detto prima, che può ridare speranza. Se però ci si delegittima e si pone tutti sullo stesso piano, i compiti secondo me è un qualcosa che va nella direzione, magari con la volontà giusta di dare uno sprone, ma dall'altro anche crea un problema. Occorre differenziare, non sono tutti uguali, occorre fare quella distinzione che faceva Monsignor Menichelli, vescovo di Ancona, occorre metterci nelle condizioni come quelli che sono in trincea della democrazia, perché gli enti locali di fatto sono quelli, sono in mezzo alla gente, ci mettono la faccia senza avere grandi strumenti, di poter dire venite in comune, non abbiate paura, parlate dei vostri problemi con noi, specie nelle realtà medie, piccole come Civitanova, voglio dire, ci si conosce, questi, ripeto, abitavano lo stesso mio condominio. Questo allargare il fossato, secondo me, e non parlo certo con il signor Conti adesso, parlo in generale, se si allarga sempre di più il fossato generalizzando, si compie qualcosa che contribuisce magari per molti in buona fede a rendere più difficile la soluzione del problema, che è un problema generale, chiaro. Sì. L'Augelli, c'è questa tendenza purtroppo a confondere, forse anche naturale e comprensibile, no? A confondere il fallimento economico con il fallimento personale, con il fallimento di una vita. Certo, guardi, noi abbiamo un osservatorio privilegiato, nel senso che stiamo raccogliendo tantissime storie e credo che si debba partire proprio da lì, come diceva il dottor Mandreoli prima. Bisogna fermarsi e leggere le storie di ognuno. Ci sono persone che nella loro vita hanno fatto delle cose che in un momento di fragilità riescono a chiedere aiuto, riescono ad arrangiarsi, riescono a guardare avanti. Ci sono persone che invece hanno agito in maniera diversa. Allora, in questo momento di crisi credo che debba ritornare in campo così lo stimolo alla relazione, il creare occasioni di incontro, e gli incontri possono essere tanti. Chi non riesce a chiedere aiuto nella maniera più classica, magari recandosi ai servizi sociali o andando alle Caritas, può farlo anche attraverso altri modi. La vicinanza, l'amicizia con qualcuno, i segnali di amici o comunque di parenti che si accorgono che c'è qualcosa che non va, non devono essere assolutamente lasciati da parte. Però l'assistenza e il dare sostegno può avere un senso se in fondo comunque si riesce a vedere una luce di cambiamento. Se il momento della crisi, della difficoltà, del disagio, della depressione che arriva, può comunque pensare di poter avere una soluzione, uno sbocco. Ed è il lavoro che cerchiamo di fare noi nel nostro piccolo, anche se è un servizio aperto sempre e comunque a livello regionale. Accompagnare queste persone che riescono a superare il messaggio, il semplice messaggio di una linea telefonica, di un numero verde, accompagnarli e trasformare questo disagio in un momento di cambiamento, di luce. Ecco, come si diceva prima, il fatto solo di condividere,